Dal Guilty Boat Cruise di Venezia, come al solito in ritardo alle 21.09. Benvenuti a Radio Bam, la trasmissione più sconfusionata ma sicuramente la più ubriaca di Radio Andatura. Sono quante birre? Per ogni persona ci sono almeno due birre, ma questo i proprietari della radio non dovrebbero saperlo. Ci trovate come ogni martedì sera dalle 9 alle 10 qui sulle 99.6 tutte le frequenze di Radio Andatura, con tanta simpatia e tanto rock and roll, che è di quello che prediligiamo, anzi solo quello che ci piace, perché non ci piace nient'altro. Rock and roll sotto tutti i suoi aspetti. C'è una cosa che chi ci ascolta deve assolutamente sapere, Franz. Cosa? Cos'è che succede oggi, Franz? Oggi? Ma no, te lo volevo dire dopo. Oggi è il compleanno del mio co-conduttore. Ma sono ancora il tuo co-conduttore? Sì, nonostante tu nonostante tutto ciò. Nonostante tutto ciò. Di un cazzo, come dicevi all'inizio. Sei ancora il mio co-conduttore, nonostante è da un po' di tempo che non trasmissiamo. Tra l'altro dobbiamo chiedere scusa perché non ci trovano le puntate da circa 5-6 volte. Franz. Mi sono anche dimenticato che numero di puntate è questo, credo che sia l'80 o qualcosa. Guarda. Adesso prometto che le metterò online presto. Le trovate su iTunes anche, tra l'altro potete abbonarvi gratuitamente digitando Radio Bam o su www.bam.magazine. No, bam. Non c'è John per fare la solita stronzata. www.bam-magazine.it. Ok. È il sito della nostra fanzine. Tra l'altro stasera assolverò al mio ruolo di co-conduttore avendo portato un po' di musica. Ci ho messo tipo una decina di puntate, però qualcosina. Ma non solo, abbiamo serata ricca, ricca perché ricca. Ci saranno i Fevers al Lio Bar subito dopo di noi e qui se li perdi stasera. Ma vengono anche qui? Vengono anche qua e forse suonano qualcosa in acustica. E allora se... ragazzi. E allora cosa facciamo? Andiamo proprio a sentirceli sti cazzi di Fever. Vai, Cry to Me. Cry to Me. Cover di Solomon Burke. Grandissimo. E allora, sono preparato cazzo stasera, ragazzi. E allora quella lì. Yeah. E questi erano i Pansy Division, gruppo gay famosissimo a San Francisco, erano anche su Alternative Tentacles con... Ah, tu mi dici really che abbiamo avuto una coerenza geografica, sì, involontaria? Sì, nonostante, sì. Coerenza del fatto che anche tu sei gay. E doppia coerenza. Senza offesa, naturalmente, perché stimiamo molto i Pansy Division e tutti i gay. Ok. Non vorrei più dopo. Tra l'altro... Gigi ha dato un colpo al tavolo durante la seconda canzone, esatto, ed è saltata, veramente. Quindi che ascoltatori... Che era Rebel Kind, il cover dei Pointed Sticks fatto dai Fevers, ecco. Che suoneranno stasera al Lio Bar in via Togni 43 a Brescia. Subito dopo questa trasmissione li avremo tra l'altro con noi fra poco, probabilmente siamo finiti di mangiare. Gigi ci ha rovinato la bellissima Rebel Kind, che è tratta dal loro primo 7 pollici ormai introvabile su Lipstick Records, che Gigi ci dice... fosse l'etichetta di Tina Lucchesi delle Bobby Teens. E tra l'altro questo 7 pollici è veramente introvabile, e loro comunque ne hanno una decina con loro per il tour e lo vendono a 10 euro, e Gigi me lo regala stasera per regalo di compleanno. Esatto. Grazie Gigi, sei un, e anche Geppo. Un duro dal cuore d'oro, Gigi, grazie. Splendido. Grazie. Splendido. Veramente bellissimo. Ah, e poi vogliamo dire che la cover fatta dai Fevers è meglio della versione fatta dai Rolling Stones. Quella di Cry to Me. Sì, sì, sì. Io mi espongo forte delle tre birre che campeggiano vicino al mio microfono. Giornata di outing è migliore la versione. Quanti anni compi, Cischi? Non si dice, non si dice. Non si dice mai. 23, si dice. 20, 23, dai. Tra l'altro stanotte è il compleanno anche di Lowe, che è il roadie fotografo dei Fevers. E ne compie 41. E quindi faremo un casino della Madonna. È più giovane, sembra più giovane di te, Cischi. Beh, adesso. Beh. Cosa? E allora, visto che tu hai scelto il tema della puntata di stasera o la musica di stasera, adesso sentiamo cosa hai scelto. Neanche io lo so cosa ho scelto. Cioè, adesso te lo faccio sentire. Cos'è questo? Vuoi introdurlo mentre parte? Là. Qua c'è tanta gioia. Penso sia i Bay City Rollers, sì, con Saturday Night. Tanta gioia, tanta voglia di ballare, divertirsi e far finta di essere giovani. No, non penso sia loro, penso sia una cover anche questa. Mi sembra che l'abbia fatta qualcun altro. Resta il fatto che è una delle canzoni più belle mai scritte nella storia della musica, dell'universo e della gioia di vivere, penso. Ci esponiamo un po'. Sì, no, no, dai, ascoltatela tutti e poi chiamate e confermatecelo. Hey!

99.6 di Radio Onda d'Urto. Questi erano i Cams da Seriate, Bergamo, Giosuco. Seriate del paese di Mach. Esatto. Ricordiamolo. È una cosa che si capisce. È proprio paese tuo, Cischi? Paese mio. Paese che mi ha dato i natali. Cams con la K, li conoscevi? Conosco uno di loro. Andrea Carminati. Andrea Carminati. She's a killer. She's a killer. Promo. Insomma, anche il pezzo è quasi killa. È tosto. E suoneranno stasera, apriranno. Ma perché qui, io sento un ritorno? Perché è alto là in fondo. Sì, sì, esatto. Non dovresti dire questa cosa. No, il problema è che non lo sentono anche a casa. No, non sentono il ritorno. Ok. Tranquillo. Ascoltami, prima di Camps abbiamo sentito Retardos con Quit This Town, dal loro 7 pollici, credo unico. Adesso Gigi magari mi dice qualcosa. Comunque in ritardo sono il gruppo di Katie e Brian, sempre dei Fevers, che suoneranno stasera al Lio Bar di Brescia. Dove ci sarà tanto di grande movimento. Io volevo dire, Davide Brambilla di merda, architetto, che te quella volta lì avevi 110 lode, io ho la maglietta del tipo che si era scopato la mia ex. Tu vattene a fanculo che stasera stai a guardare la corrida o sostitutivo, io invece sarò col Gigi Rubagotti a bermi il pastis a far casino. Ascoltami, quelli che passano sulla 4 non capiscono, o dici la premessa della cosa. No, che stavo premessa? Stavo parlando di quelli non divaghiamo. Non divaghiamo. Era una cosa tra me e il Davide Brambilla. Va bene. Quindi... che è, diciamo, quello che fa carriera, quello che 110 lode alla macchina, così invece noi siamo qua senza niente. Te guarda che io farò carriera, sfigato, che cazzo stai dicendo, che sono un patetico loser. Esattamente. Cioè, ma voglio dire, sì, al momento. Anche perché tutti stanno bevendo birra di marca e tu stai bevendo la Think Brau. Ah, perché è la Stella Artois di marca, secondo te? Sicuramente meglio la Think Brau. Dai. Prima di retardo abbiamo sentito i Bay City Rollers con Saturday Night, e se avete da lamentarvi per questo pezzo, che comunque a noi piace, sparatevi. Potete lamentare in testa. Con cui, per esempio, Cischi. No, di persona. Di persona. Di persona, venite. E niente, Cischi, che sì. Altro? Volevamo interpellare il nostro amico Giacomo Tatti, detto Geppo, che di solito faceva il nostro referente da Cagliari per quanto riguarda la Champions League, ma siccome la Champions League non c'è. Ma un pronostico per sabato, invece, Giacomo Tatti, tu come Bayern la vedi? Monaco. Bayern Monaco, triplette. Triplette tedesco, insomma. Ma piuttosto tu che lo sai, nonostante siamo per Gassi la compro o no questa palanca? Assolutamente no. No, i Ruggeri si tengono la gallina dalle uova d'oro. Così mi ha detto un fotografo ben inserito. Ve lo dico adesso in radio, Ruggeri di merda, se non siete la società e non iniziate a metterci un po' di soldi, vi vengo a prendere io. Quindi cioè, è ufficiale. Per Invece viene a prendermi Franz, cazzo. Perché sì, non compra né l'Atalanta né me, quindi rimane proprio. Esatto, perché sai che lui ha avuto un'offerta. So benissimo che perché si vuole comprarsi Geppo. Una o l'altra. Esatto. Beh, il cartellino di Geppo, ragazzi. È un po' come il cartellino dei Fevers che suoneranno stasera al Lio Bar, e ci andiamo a sentire per la terza volta stasera in attesa che arrivino qua. Viva loro! You know. Started to make wedding plans. Oh, really? Oh, where's yeah. the exit? If your love is half as true as the love I offer you, oh, darling, yes, yes. I think it's gonna work out fine. It's gonna work out fine. I keep on telling you. I think it's gonna work out fine. I have a feeling. I feel it's gonna work out. E questi erano gli Spider Babies che abbiamo messo proprio perché è il compleanno di Cischi, con il pezzo dal titolo My Cock Your Ass. Esatto. Allora, aspetta un momento, Gigi, ho bisogno del tuo aiuto. Come facciamo a far capire che gli Spider Babies sono stati una delle più grandi band anni 90? 90? 2000? 90? 90? Fine 90. Fine 90, sei un po' a cavallo. Com'è che facciamo a spiegarlo? Cioè, nel senso, andate ad ascoltarvi i loro dischi innumerevoli, cosa si può dire? O anche solo leggete i titoli dei loro pezzi. Ecco, leggete i titoli dei loro pezzi. No. My Cock Your Ass, ad esempio. dice tutto. Dice tutto, vente, insomma. Prima hai scelto Andrew Williams con It's Gonna Work Out Fine, giusto? È arrivata una brutta persona in studio. È arrivata una bruttissima persona... Che suona di spalla i Buzzcocks. Un mafioso. Mafioso. Nel tuo mondo di festi. Oh, parole grosse qua. Parole grosse che volano. Rico Belli, nel tuo mondo di frutta candita e feste gay, non c'è spazio per il rock. Adesso mi picchia di solito. Quindi Rico Belli di spalla i Buzzcocks. Che ne so, che ne so. Non so nulla. Vabbè, Andrew Williams rifiuta di commentare. It's Gonna Work Out Fine, perché hai scelto questo pezzo? Perché è molto figo, una cover molto figa, visto che stasera ne abbiamo fatto un po' di cover. Ho detto, vabbè, non lo sapevo io che ne avremmo fatto. I Fevers con Bottom of the Sea, da quello che è il loro primo album che è stato pubblicato su Alien Snatch Records. Con un titolo I Fevers non sono qua, perché abbiamo appena tornato a stasera suonano gli Obar, quindi mettiamo su un pezzo e poi ce li ascolteremo. Ok. E li intervisteremo. E io non premo il cazzo perché non fanno Cry to Me. Noi non mettiamo un pezzo rock and roll o Flaming Lewis o 60s o cosa, mettiamo qualcosa di anni 90. Oh sì. Sì. L'abbiamo ascoltata venendo in macchina, Ciccio. .6 di Radio Onda d'Urto. Finalmente abbiamo qua gli ospiti di stasera, oltre a Cischi che compie gli anni. Sì. Sono i Fevers dalla California, finalmente qua in Italia dopo molti molti anni. Allora ragazzi, come andiamo? Very good. Yeah, it's great. Allora, come avete mangiato bene oggi? Chuck Berry. Chuck Berry is my favorite too. Yeah. Cosa vi aspettate dal concerto di stasera? You know, I like one time spaghetti more than pizza. Yeah. I would say. Yeah. Spaghetti. Ma quali sono le vostre influenze? Ovviamente stiamo scherzando, ma hanno chiesto facci l'intervista in italiano e noi rispondiamo a caso e l'ha fatta abbastanza bene alla fine. Good work, guys. Was it good? So I guess your influences are Chuck Berry, you eat pizza one time, and that's it. Yeah. Good, eh? Yeah. So are you gonna play acoustic for us or no? No. No, sorry. We're only electric, only. What do we play? You want to try that song? Yeah, let's try one. Allora, non hanno... Mi hanno chiesto di suonare una canzone. No, anzi, mi hanno chiesto... Io gli ho chiesto di suonare una canzone. Loro mi hanno chiesto... Ah, puoi lasciarci un po' di pratica. Gli ho detto no, adesso dovete suonare. You want me to play one song, so you practice? Yeah, you should play a song. Okay. You're much better than us. So... Allora, Cischi, intanto che scelgo un pezzo, okay, parla un po' te dei Fevers, parla dell'importanza dei Fevers nel mondo. Allora, l'importanza dei Fevers nel mondo, tanta melodia, chitarre. Sorprendentemente, il secondo disco è meno bello del primo. Oddio, non so se è sorprendente. Perché. We've been wondering about the reason why your second album sounds not as good as the first one. Do you feel the same? That's a good question, because we used a different engineer and it lost the magic of the first one. Magic was lost, man. Yeah. So it was a lot harder to make the second one. The songs are still good. Yeah, we love the first record too. The first record is great. I love it. I like the second one the best. Oh really? You guys are jerks. Okay. I like the Retardos more than the Fevers. Allora, traduci te adesso. Ho chiesto perché il secondo album sorprendentemente è meno figo del primo, suona insomma peggio del primo, e lui mi fa insomma abbiamo cambiato il sound engineer e l'altro mi ha detto non è vero, il secondo è figo, sfigato. Tra l'altro non è molto bello accogliergli dicendo il secondo disco non, è tanto, non mi piace tanto. Complimenti. No, veramente complimenti. Però gli lasciamo un po' di pezzo. Lasciamo un po' di pezzo per fare pratica e mettiamo su qualcosa di bello, no? You still talking? Or is it still on? Sì, stiamo ancora parlando. How come you didn't ask about the greatest drummer? It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. The day you came my way, I knew I would stay close by your side to keep you satisfied. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. When you look at me, in your eyes I can see love that grows each day. That's why I've gotta say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Never thought I'd find a girl like you. Be blue. It's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Every time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. Time we meet, my heart skips a beat. And now you're here to stay. You'll always hear me say it's gonna be alright, alright, alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Jerry and the Pacemaker con It's Gonna Be Alright. Gli abbiamo dato come pausa ai Fevers, che cercheranno di suonarci qualcosa dal vivo, nonostante gli abbiamo chiesto all'ultimo minuto. Giusto, Cischi? E si stanno preparando. Guys, are you ready? Maybe. So what are you gonna play to us? From the last single. Okay, so you are ready? Let's go! Goes like this. I made a mistake real early on. I thought I was right, but found out I was wrong about you. You are in love, but you can't be true. I'd give you another chance if I could, but you know I know by now it would do me no good. You are in love, but you can't be true. There's no excuse for crying, and now there's no denying. You are in love, but you can't be true. You are in love, but you can't be true. Ba da ba ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da ba ba ba da ba. I made a mistake real early on. I thought I was right, but found out I was wrong about you. You are in love, but you can't be true. There's no excuse for crying. And now there's no denying. You are in love, but you can't be true. You are in love, but you can't be true. You are in love, but you can't be true. You are in love, but you can't be true. We could try and you know, a little this bit. This one's called The Freaker's Ball. Yeah. I'm coming now. Don't you know I'm gonna get you now. Can't you see that? Wherever you go, whatever you do, mama baby, I'm gonna be there to help you through. Come on, come on, come on. You still haven't asked us about the greatest drummer in the world. Yeah, who is the greatest, right greatest drummer in the world? Kathy Walker. Kathy. Say hi. Yeah. Say hi. Italy. Allora, stiamo Internet parlando, Italy. Stiamo parlando del fatto che i Fevers per questo tour hanno la loro batterista originaria, Katie, anche dei Retardos. We played the Retardos before. You played? Yeah. You heard her backing vocals? Her great singing? Yes. It's Katie, eh? Quit This Town, we played Quit This Town. So you left at home the third guys, Travis, and you got the best one. We got the original drummer, the original girl who spent all the hard years of trying to start a band. She was the one who was with us. We were only 8 years old when we started. That's so right. So you started your tour last Saturday, how was that? That was on a boat, a crazy boat with crazy Italians. Yeah, it was really fun. Yeah. Good. And then you played Innsbruck. And we peed in the Venice Lagoon. That's it. Can we say that on the radio? Of course. Many times we peed in the Venice Lagoon. Don't swim in there. Don't swim. And then you played Innsbruck, right? Yeah. And yesterday Piacenza. Yes. So you had fun till now? We've had great time, yeah. Lots of good food, good people. Great. Allora, sono per la prima volta in Italia, hanno iniziato il loro tour sabato scorso in quel che era il festival della primavera, ovvero su una barca sulla... Della primavera. Era il festival della primavera. Okay. Cioè, anzi anche forse dell'estate, perché qualcosa di più bello non ci sarà, forse la Ghost Lake può competere, ma nient'altro. Oh sì, e io non c'ero, Frank. E tu non c'eri, sono sfigato di merda. Perché sono stati 3 giorni paurosi, a Guilty Boat Cruise, a Venezia. 3 giorni in cui si partiva con una barca dalle 8 e si tornava alle 2 e c'era festa e devastazione sulla barca. 5 gruppi in tutto, i Fevers hanno suonato sabato, è stata una figata, sold out, gente in delirio, gente che surfava, gente che pisciava nella laguna, infatti dicono... Ma dei Miss Chain non diciamo niente. Non diciamo niente. E che altro? Invece poi domenica hanno suonato a Innsbruck i Fevers, lunedì a Piacenza e stasera... loro pensano di aver avuto il loro concerto migliore sabato, ma non sanno un cazzo, perché stasera al Lio Bar in via Togni 43 gli spacchiamo il culo. Erano preoccupati di poter dire pisciare le cose. Pisceremo noi addosso a loro stasera. So guys, when you will release the next record? We don't know. We don't know when that will be. Because like the 2 previous records released on the Alien Snatch Records are like dated now. Yeah. Yeah, maybe Tuesday or Wednesday. Yeah. Wednesday, I think. Yeah, Wednesday. Wednesday is a good day. So is your family super well? Super cool. Our family? Yeah. No. Families are, no, they're not. They're good, yeah. Okay. Yeah. They're going to be on the next record. Pensate di suonare stasera al Lio Bar. Sure, Little Richard, please. Little Richard. So Chuck Berry? Chuck Berry. No, Little Richard. Or the Turtles. Fats Domino. Fats Domino. Yeah. Good. Or Chuck Berry. Or Chuck Berry. Like this. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans, all the cats gonna dance with sweet little 16. Sweet little 16, she just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Become so excited, watch her look at her run, boy. Oh, mommy, mommy, please may I go? It's such a sight to see somebody steal the show. Oh, daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, it's all right with you. 'Cause they'll be rocking on Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. Thank you. they'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with, oh, sweet little 16, she's got the grown-up blues, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll change her trend, and be sweet 16, and back in class again. But rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16. Hey, Ubbly Bob. Hey, Ubbly Bob. E l'avevano chiamato Chuck Berry. E c'è qua. Tra l'altro, proprio ieri ho visto Cadillac Records, che è un po' il film che è uscito un anno, l'anno scorso, mi sembra, su Access Records, che consiglio a tutti di vedere. Molto, molto bello. Adesso su Sky. Io ignoro l'esistenza. No, Cadillac Records, molto, molto bello. Ci vedi Chuck Berry, vedi Muddy Waters, vedi un sacco di gente. Ci dicono di tagliare perché stiamo già sforando. Ma no, sono le 22. 22.01, perché adesso va in onda Desert Caravan. Capito, ma se noi siamo partiti in ritardo, anche gli altri vanno in ritardo. Non è che posso. Se siete dei coglioni, sono cazzi vostri. Zio, sei mafioso. Adesso, è mafioso. Adesso, dopo di noi, come ogni martedì sera, va in onda Desert Caravan. Va a cagare! Esattamente. Fevers, thank you so much. Thank you, Franz. Non è in Serie B? No, beh, è ancora in Serie B Desert Caravan. Guys, thank you so much. Sorry for this mess. We are gonna see you tonight. Very unprofessional. Domani invece all'Igera di Milano insieme ai Vomit Tongs. Yeah. Giovedì party privato in quella della Toscana. Guardate il sito dei Fever se trovate dove potervi iscrivervi. House party. Venerdì all'oste di Domodossola, mentre sabato iniziano il loro tour europeo andando in Svizzera e poi via via fino alla Norvegia. Dopo il Desert Caravan, appunto, di cui sta partendo adesso il tema, eccolo qua. Mentre invece Brian sta facendo Berry. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, quando suoneranno i Dear Landlord con il Kill Time da Roma. E quindi saremo qua a intervistarli, come sempre. Se abbiamo voglia, saremo qua. Ricordatevi di visitare www.bam-magazine.it. Questo è Desert Caravan. Grazie mille ragazzi, grazie mille a tutti, a settimana prossima.